azzurri dopo un anno nero. Tu non sei cambiata molto, mentre io sono più sincero. Nuovi cieli azzurri sopra il mondo intero. Dopo il fischio brasiliano era azzurro ogni mio pensiero. Azzurro, che cos'è? È ciò che piace a me. Azzurro che mi dà senso di libertà. Colora ciò che vuoi, perfino i sogni tuoi. Vedrai che li vorrai, azzurri come i miei. Che non hanno visto niente di sbagliato e fanno l'occhiolino. Azzurro, che cos'è? È ciò che è dentro me, la parte che mi dà gioia e serenità. Colora ciò che vuoi, perfino gli occhi tuoi. Li vorrei vedere nelle notti calde di cannoni accesi, pronti per sparare. Azzurro, che cos'è?